In questo momento sicuramente ci darà l'economia, perché è la preoccupazione principale degli americani, e di conseguenza credo ci sia un grande desiderio di svolta e che spinge chiaramente a favorire Obama. Questo crede che in qualche modo, come dire, un'eventuale vittoria di Obama possa avere degli effetti più incisivi che una vittoria di McCain nella svolta rispetto a questa crisi? Non necessariamente, cioè è un bel punto di domanda in realtà, perché se lo si guarda sulla carta probabilmente le politiche economiche fiscali di Obama sono meno favorevoli in qualche modo al mondo finanziario, al mondo corporate, perché probabilmente vuol dire tasse di capital gains più alte, tasse sui dividendi più alti, non di certo un abbassamento del corporate tax, anche probabilmente una politica più di protezionistica rispetto a quella dei repubblicani. Quindi il mondo della finanza preferisce McCain? Secondo me direi di sì, generalmente direi di sì, però c'è una grande fiducia che magari Obama non sarà poi così restrittivo, anche uno perché deve fare i conti con la realtà, due perché si presume che tirerà dentro qualcuno come magari Rubin piuttosto che Larry Summers come ministro delle finanze, che nel passato sono dimostrati di essere molto market friendly.